In the last dialogue, you heard more phrases with the verb avere, to have. For example, you heard avere sete, to be thirsty. Io ho anche sete. Avere fame, to be hungry. Allora, Sara, non ha fame? You're already familiar with avere ragione and avere torto. There are a number of other phrases which use the same pattern. To have plus another word to express feelings or physical states. For instance, avere paura, to be afraid. Here's the I version, as in I'm afraid. Listen and repeat. Ho paura. Now for some other phrases in the I form. Ascolti l'italiano, poi l'inglese, di nuovo l'italiano e ripeta. Cominciamo. Ho sonno. I'm sleepy. Ho sonno. Ho fretta. I'm in a hurry. Ho fretta. Ho caldo. I'm hot. Ho caldo. Ho freddo. I'm cold. Ho freddo. Adesso ripassi il nuovo vocabolario e poi continui.